Dopo. Puoi andare. Vado. Ok. Difficile, eh? Parlare di Barbara. Beh, io parlo di politica. E vorrei raccontare che cosa rappresenta, ha rappresentato per Barbara, rappresenta per tutti noi la scrittura del perché. Partendo dalla battaglia di libertà, dopo la sconfitta. Dopo la sconfitta, alcuni compagni, tra cui Barbara, io e altri, abbiamo lanciato, forse ancora ingenuamente rispetto alla situazione, la cosiddetta battaglia di libertà, cioè noi abbiamo perso, qualcun altro ha vinto, però la storia è fatta di vincitori e vinti, e la ragione dei vincitori in questa storia conta. Speravamo che questo tipo di dibattito potesse coinvolgere la società italiana, i compagni nostri, la sinistra soprattutto, ma anche il resto delle persone interessate. Purtroppo le ragioni di Stato sono diverse dalle nostre speranze, per cui non è andata così. Però Barbara, e qui in questo video si sente parecchio questa cosa, ha cominciato a scrivere proprio per questo motivo, perché la voce dei vinti non fosse persa nel vuoto, non fosse semplicemente gli anni 70 non fossero ridotti solo a qualche corteo in giro per l'Italia e a rapimento Moro, in pratica, perché è un po' di terrorismo. Mentre c'erano le lotte, c'erano le fabbriche, c'era il contropotere, c'era un ideale e una speranza in cui le persone hanno sperato e pensato che fosse possibile almeno provarci a cambiare l'ordine delle storie presenti. Ed è per questo che Barbara ha cominciato a scrivere, a partire da sé, perché nessuno di noi, appunto, se non in un dibattito complessivo, può raccontare gli anni 70 e quello che è successo dopo, pretendendo di rappresentare tutti, nessuno. Lei per cui è partita da sé, dalla sua vita e dalla sua esperienza, e lo dice chiaramente, questa è la mia storia e come io ho vissuto questi anni. Però io, leggendo e parlando con Barbara, mi sembrava di averlo scritto io, anche se io scrivo molto peggio di lei. Ed era un modo per cui i vinti potessero riprendere la parola, o comunque mantenerla, fare in modo che quel pezzo di storia continuasse a vivere. Con lei ci hanno provato in tutti i modi a tagliarli fino a, come si chiama, Tabucchi, il nostro noto scrittore Tabucchi, che praticamente l'ha fatta cacciare da Feltrinelli, per cui negando ancora una volta la sua voce. E lei però ci è riuscita in tutti questi anni a farla questa storia. E non solo a fare la storia, perché molti altri compagni hanno raccontato pezzi della propria storia degli anni 70, della carcerazione, ma di agganciare questa storia a quello che è oggi. Cioè, lei lo dice chiaramente, per far lavorare oggi e per cambiare qualche cosa oggi, organizzarsi, bisogna conoscere la storia, bisogna conoscere la storia precedente, bisogna sapere, lei dice, perché c'è qualcosa che è andato storto, perché i movimenti rivoluzionari del Novecento, e sono stati tanti in effetti, alla fine non sono andati, sono falliti in qualche modo, da tutti i punti di vista. Per cui questo è il modo, io ne sono fermamente convinta, anche per la lettura del presente. Il presente nella ricerca nel presente del modo per provare a non accettare tutto quello che sta succedendo, perché resistere, lei dice resistere, sabotare e disertare, ed è questo, cioè partire da noi stessi, perché dall'ecologia, dalla digitalizzazione, dal riarmo, cioè dal Covid, cioè veramente è un mondo distopico che abbiamo di fronte, e lottare contro questo mondo distopico è tosta, è veramente tosta, però lei la speranza ce l'aveva, insomma, questa cosa di poter continuare ad andare avanti e trovare un modo adesso, non quello passato, perché quello passato è passato, è un altro mondo molto differente. Noi in carcere, quando venivano compagne, persone da fuori che ci venivano a trovare, dicevano il mondo è cambiato, non lo riconoscerete. Porco Giuda, era vero, cioè 10 anni di carcere, siamo trovati in un mondo che non, in cui le relazioni umane si erano modificate, e per cui era difficile tutto, ricostruire un'identità collettiva era difficile in questo mondo. Adesso poi, a distanza di anni, è tutto molto molto evidente. E niente, lei ha usato la sua memoria, la memoria anche parte collettiva, per tentare di riportare al presente, per darci la chiave di lettura di un presente. E io sono qui per questo, perché vorrei provare a continuare a fare in modo che le sue parole possano vivere. Cioè, non scrivo, non faccio niente di questo genere, però penso che le sue parole sono di una lucidità estrema. Non so, forse voglio dire qualche cosa, ma vabbè. Vabbè, io ho conosciuto Barbara in un momento diverso rispetto a Cecilia, che ha avuto appunto un percorso molto più lungo, e io l'ho conosciuta da libera. C'è una cosa forse che è quella più importante nel rapporto che io... Beh, parlo, mi sono preparata delle cose, però le lascio stare, perché anche sentendo Cecilia, insomma, mi sono venute in mente altre cose. E quindi parlo della mia esperienza con Barbara. E la cosa... forse più importante che c'è stata, almeno che io ho avuto con lei, e che sarebbe dovuta essere poi una cosa con una dimensione collettiva, è la trasmissione di esperienza, cioè il riallacciare un dialogo tra generazioni che è stato interrotto in un modo brusco, perché c'è stata la galera, perché c'è stata la negazione della memoria e della storia, e quindi gli anni che io ho passato con lei sono stati essenzialmente anni di un dialogo che si è sviluppato appunto tra il ricordare, quindi tra il passato, ma soprattutto ricordare come necessità di costruire e poter rimettere nell'orizzonte un'idea che per Barbara è sempre stata collettiva, cioè non ha mai pensato individualmente, cioè la dimensione collettiva per lei era necessaria, e trovarsi appunto in un mondo completamente trasformato è stata probabilmente, credo che come impatto sia stato quello più forte, più violento. E la scrittura in questo io credo che abbia avuto un ruolo determinante. Volevo dire due cose sulla scrittura, cioè non stiamo parlando di belle lettere, anche se i libri sono scritti molto bene. Ma la scrittura di Barbara è stata soprattutto un atto politico-poetico. Che vuol dire? Barbara non ha fatto memorialistica, a differenza di tanti. Il suo modo di concepire la memoria, che non si limita poi, no, alla memoria degli anni 70, è una memoria che va molto più indietro, che è molto legata poi ad una concezione di tempo che è andata sviluppando nei suoi libri. Qui nel video c'era solamente una parte dei testi, il video è del 2016, mi pare. E poi nel frattempo Barbara ha scritto altro. E appunto era una scrittura che ha una capacità di sovvertire, subvertere, era una forma molto arcaica, era utilizzata dai contadini per quando appunto rovesciavano nel processo di rovesciamento della terra, ribaltamento della terra per far respirare e per portare in luce quello che c'è sotto. E beh, è questo il senso, no? Sovvertire una narrazione di un immaginario che, raccontato poi in un altro modo, può assumere appunto una dimensione di rottura. C'erano una serie di altre cose, vabbè, però adesso mi viene in mente questo. Per riportarmi all'attualità più impellente, e negli ultimi anni, andando in giro così, molto spesso sentendo il brontolio, la lamentazione per le cose che non funzionavano, Barbara c'era una reazione estremamente dura, diciamo decisamente incazzata, perché appunto cioè il fatto è questo, il fatto di essere arrivati, di accettare quotidianamente come la goccia cinese che batte, che fa il buco, ci ha portato poi all'incapacità totale di critica. L'incapacità di un pensiero che sia un pensiero di rottura. Ci siamo messi, ci siamo accomodati dentro una gabbia, siamo stati disarmati, ma disarmati soprattutto nella testa. E quindi ecco, io credo che il lavoro più la cosa più importante che lei abbia fatto sia stata proprio quella di cercare di rimettere in moto una serie di meccanismi, e la scrittura gli ha dato la possibilità di raggiungere una dimensione in qualche modo collettiva. E vabbè, mi fermo qui, per esempio, c'è una serie di altre cose che volevo dire, però una cosa importante, che non fa parte della tradizione nostra, ma anche quella italiana più in generale, è quella di far finta che non ci siano state sconfitte. E questo vale in parte per gli anni 70 e vale per quello che è avvenuto dopo. E allora noi ci ritroviamo oggi, però appunto la questione è questa: l'oggi non è che ci è caduto in testa così dal cielo. In un attimo, il non aver riflettuto sopra una serie di sconfitte ha fatto sì appunto che poi ci troviamo in una situazione appunto di disarmo, fino ad arrivare alle ultime, agli ultimi, l'ultimo anno e mezzo in cui di fronte al genocidio che sta accadendo in Palestina non riusciamo assolutamente ad incidere ed è una cosa che personalmente ha un effetto devastante. Cioè, stiamo assistendo, ci siamo trovati a vivere il tempo dell'infamia di un genocidio senza riuscire a in qualche modo bloccarlo. E l'ultima cosa, ecco. Quello che c'è, che è l'aspetto positivo di Barbara, è la sua capacità di guardare, di fare sempre molta attenzione e cogliere le dissonanze che c'erano, anche in un ambiente, in un contesto politicamente appiattito, però aveva la capacità di andare a trovare quello, magari quel piccolo inceppo che permetteva di non far chiudere del tutto la porta. Vabbè, mi fermo qui, poi magari ridiscutiamo. Io volevo aggiungere solo una piccola cosa che mi ha fatto venire in mente. Sulle riflessioni che Barbara faceva insieme, abbiamo fatto sul Covid e sull'inizio della guerra in Ucraina, in cui quella cosiddetta sinistra, che fino allora comunque su alcuni temi era rimasta, diciamo, dalla stessa parte, si è completamente implosa, cioè compagni con cui facevi comunque delle cose, pensavi comunque di poter fare progetti che partivano tutti per l'Ucraina, per aiutare i poveri ucraini, o che facevano la fila per fare il vaccino per il Covid, perché se no non si poteva. Lì lei ha avuto veramente la percezione di un altro punto di rottura che ci ha portato oggi, ed è appunto con quei compagni con cui avremmo voluto fare una riflessione in merito a quello che era stato, e confermo. E con cui l'ho anche scritto, quindi lo possiamo dire, con cui veramente non c'è possibilità di ritorno, perché da certe cose, appunto, cioè un momento come quello è stato completamente rimosso e ci ritroviamo oggi come niente fosse. E così. C'è anche un'intervista che Elisabetta e Noemi avevano fatto a Barbara, l'ultima, che poi in qualche modo forse vorranno, vedremo insomma come fare, e Elisabetta chiede come mai, da dove nasce questo libro, e Barbara dice dalla disperazione, cioè dalla disperazione nel vedere in una situazione che è stata, poteva essere potenzialmente una possibilità di rottura, vedere invece gli spazi completamente chiusi in un'accettazione totale. Appunto, mi fermo. Sì, no, no, è tutto giustissimo. Tant'è vero che una delle caratteristiche che ha sempre avuto Barbara è stata quella di avere una sensibilità acutissima rispetto a quello che veniva rovesciato sugli oppressi. Una sensibilità era ancora prima che ideologica, era una sensibilità diretta. E questa sensibilità ha fatto sì, secondo me, che rispetto a tante compagne e compagni che venivano da una storia simile, che magari avevano passato la galera, che avevano fatto tante cose, ha fatto sì che lei abbia capito subito quello che stava succedendo, mentre altri altre non solo non hanno capito, ma si sono resi strumenti addirittura di reazione. Questa è una delle cose che l'ha mandata moltissimo fuori di terra. Perché vedere quello, cioè sentire prima sulla pelle che appunto dal punto di vista ideologico quello che stava succedendo, e vedere che non c'era risposta adeguata, comunque neanche comprensione, che è ancora un altro livello. Questo è stato un motivo di grande dolore da una parte, ma anche di spinta a raccontare lucidamente quello che sentiva, perché è vero quello che ha detto, che l'ultimo libro, Respiro, è praticamente un atto dovuto rispetto alla situazione politica, un atto dovuto rispetto ad una chiamata alla responsabilità di chi vedeva che non capiva o che avrebbe dovuto capire, o comunque a un modo di porsi verso questo stato di cose. A me mi ha sempre colpito di Barbara. Noi come coordinamento abbiamo sempre cercato di usare la memoria come strumento di lotta nel presente e quindi di riportare all'attualità quello che sia nello scritto di Barbara, sia recente, ma anche negli scritti passati, aveva valenza di supporto e di chiarezza e di aiuto per le lotte presenti. Una delle cose che a me mi ha sempre colpito e che ritengo importantissima è quella che viene dalla sua esperienza nell'istituzione totale del carcere. Perché? Perché allora lei ha passato un periodo lunghissimo in galera, e della galera chiaramente ha subito, percepito, capito e analizzato quelli che erano i meccanismi. Una volta si diceva che il carcere era lo specchio della società che rappresentava, e invece adesso non è più così. È la società che è diventata come il carcere, è diventata un'istituzione totale. E questo meccanismo di istituzione totale lei l'ha capito subito, è uno degli elementi, è stato il periodo della pandemia, del Covid, che poi si è sviluppato anche insieme alla sua malattia, quindi è la comprensione dei meccanismi dell'istituzione totale addirittura dentro il meccanismo dell'istituzione totale sanità, no? Però non è questo, è che dentro il carcere, tanto è vero che io adesso vorrei leggervi una pagina che secondo me è molto chiara per capire quello che sta succedendo adesso e come stanno trasformando la società adesso. Lei dice: un enorme carcere ci si è chiuso addosso, governato con l'arbitrio di chi ha il potere di decidere con chi e quanti si può socializzare, e attenzione che il vicino controlla. E come in carcere rompere la gabbia di cadenze e orari può voler dire riappropriarsi di quel briciolo di libertà condivisa che serve ad arrivare a sera. Sembrano dettagli, ma possono salvaguardare la salute mentale ed emotiva di chi ne vive per anni la condizione. Come mangiare orari diversi dal passaggio del carrello, imbucare la posta più tardi della chiusura dei blindati, difendere il silenzio della sezione nelle ore di studio, l'uso del lei per mantenere le distanze col personale in divisa, il non cedimento al ricatto delle sanzioni, il rifiuto di altra costrizione se non quella delle sbarre. Il commento: non sembra neanche che stiate chiuse qua dentro, da parte di chi aveva l'ultima parola sull'andamento del nostro percorso di rieducazione, segnava il confine che avevamo messo tra noi e loro. Una sorta di autogoverno adattata al luogo, una fuga dallo stato di minorità, un tempo per sé, riconoscibile nel suo viaggio, strappato ai ritmi imposti, riempito di vita propria, dell'illusione di poterne avere una. Nell'alternanza di odori tra notte e giorno, anche se la luna non si vedeva mai e non era mai completamente buio. Allora, che cosa significa questo racconto su quella che era la vita del carcere? Questa vita che Barbara racconta nel carcere, lei ha capito subito che era quella che ci stanno preparando adesso. Cioè adesso ci stanno, il sistema di potere ha in mente un cambiamento epocale della società, che non è soltanto, anche il DDL l'hanno approvato ieri, non è soltanto un problema di controllo. Se fosse un problema di controllo sarebbe anche sopra le righe, perché in effetti dov'è tutto questo movimento sociale? Certo, no? Allora, il problema è che il potere vuole che noi facciamo come in galera per ogni qualsivoglia cosa che ci serve, che facciamo, noi dobbiamo chiedere il permesso, noi dobbiamo fare la domandina, noi dobbiamo essere in condizioni di aspettare una risposta che può essere molto probabilmente negativa, dobbiamo essere inquadrati in tempi e spazi che dicono loro. Non è un caso che ci stiano chiudendo sempre più in gabbie. Hanno bisogno di comportamenti standardizzati, di risposte standardizzate a questi comportamenti. E non è un caso che Barbara dica che la diserzione e il sabotaggio in primis passa attraverso il rifiuto di questi tempi, il rifiuto di questi spazi, il rifiuto delle loro imposizioni, il rendere manifesta una tempistica di vita che non è quella che ti devono imporre. Noi come coordinamento ci stiamo facendo un percorso su questi cambiamenti che stanno cercando di imporci, e abbiamo notato, cioè l'abbiamo notato leggendo le loro cose, perché il capitalismo dice le cose, non è che non le dice, le dice, soltanto bisogna capirsi, no? Dice tutto. Allora, a un certo punto ci siamo resi conto, leggendo un pezzetto del famoso manifesto dei 15 minuti, della città dei 15 minuti di Carlos Moreno, che dice, no? È tempo di passare dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione della vita urbana, della vita. Ciò significa trasformare lo spazio della città, ancora altamente monofunzionale, con le sue diverse aree specializzate, in una realtà policentrica, basata su quattro componenti principali: vicinanza, diversità, densità e ubiquità, per offrire le sei funzioni sociali urbane essenziali: vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere. Noi dobbiamo vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere con i loro modi, con i loro tempi, con i loro ritmi e nei loro spazi. Noi dobbiamo imparare a fare questo. Come dice Barbara del carcere, noi dobbiamo imparare a disertare, a sabotare, a rifiutare. Perché poi, rifacendoci anche un po' alla riflessione su quella che è la storia, per grossissime linee, di quello che è la storia del capitale, il capitalismo ogni volta che ha voluto trasformare per una diversa estrazione del plusvalore, per degli interessi di profitto specifici, la vita dei subalterni, ha agito sul tempo e sullo spazio. Ha chiuso gli spazi comuni con l'enclosura per costringere i subalterni a lavorare sotto salario, non avendo altra via d'uscita, hanno dovuto accettare i tempi e i modi del capitale. Hanno costretto, io dico perché siamo femministe, noi donne, ad accettare la famiglia mononucleare, ad accettare la subalternità coatta dentro la famiglia, che quella che adesso noi riteniamo normale, ma normale non è, addirittura bruciando fisicamente i corpi di quelle che erano le frattarie, no? Ci hanno costretto nei ritmi della fabbrica, gli orari della fabbrica, gli orari della scuola, gli orari del tempo libero. Praticamente noi la società in cui stiamo adesso, che ci sembra normale, che loro adesso stanno trasformando ulteriormente, è invece già stata sistemata con la definizione di tempi e di spazi precisi. Allora, loro adesso stanno mettendo in atto un'ulteriore trasformazione. Quindi la domanda che noi ci dobbiamo fare è: perché? Cioè, dove vogliono andare a parare? Molto probabilmente vogliono andare a parare una società molto più standardizzata, in cui la maggior parte degli individui sono inutili, nel senso verranno espulsi, cioè la prova che loro hanno fatto con l'impasse, individui di serie A, individui di serie B, chi si adatta è dentro, chi non si adatta è fuori. Perché nella loro società programmata noi siamo, gli individui superflui sono tantissimi, sono troppi. Comunque noi queste sono le domande che ci dobbiamo porre, ed avere il suggerimento, l'aiuto, il respiro che Barbara ci ha dato attraverso una sensibilità acuta ogni volta che vengono tagliati, chiusi gli spazi e cambiati i tempi del vivere fisico delle persone, si dice che bisogna rifiutare, bisogna crearsi degli spazi, bisogna decidere di... La prima cosa è un no. Quindi noi, questo tipo di messaggio vale per il presente, cioè non è soltanto un'acuta analisi di una persona colta, sensibile, è molto brava a scrivere, che anch'io, come ha detto Cecilia, molto spesso mi leggo in quello che lei scrive, no? Cioè, è come se l'avesse scritto è destabilizzante per te. Non è solo questo, è che lei attraverso lo scritto ti apre delle possibilità di comprensione e ti mette a nudo dei meccanismi che sono validi anche all'attualità. No, solo una cosa rispetto a quello che dicevi, no? Sul tempo e sullo spazio. Barbara, insomma, l'ha detto molto chiaramente, ma poi credo appunto che sia una cosa che ognuno di noi può osservare. Il nostro pensiero ha un tempo per assorbire i cambiamenti, per assorbire i concetti, quello che succede, per elaborare, e abbiamo bisogno di un tempo. Il tempo che c'è oggi è quello del 5G. Certo. Siamo in una dimensione che non appartiene neanche più all'umano, no? Quella è una delle forme di espropriazione, quindi riconquistare il tempo. Più volte, negli ultimi tre libri soprattutto, c'è questa insistenza, no? E anche il tempo è un campo di battaglia, così come riprende l'esperienza dei comunardi che sparano all'orologio. Lo sparare all'orologio è una sospensione del tempo. È la sospensione del tempo lineare, del tempo del dominio. È in quella sospensione del tempo che c'è la possibilità di trasformazione. Cioè la possibilità di trasformazione, per esempio, quel pezzo che hai letto, no? Anche sul carcere, quello è un periodo di sospensione. In quel periodo di sospensione, in quella gabbia, tu riesci, attraverso il fatto che stai studiando e non vuoi che il secondino ti venga a disturbare con il rumore, tu stai in qualche modo proponendoti come soggetto attivo. Certo. c'è vita. Il problema è che noi siamo in una condizione di non vita, siamo ridotti alla, appunto, alla nuda vita, vivere come atto biologico. Vivere come atto biologico è un sottovivere, appunto. E anche la costruzione. Sì. No, dico anche la costruzione che la digitalizzazione imperante, tipo in cui ti chiude, è che tu devi fare dei percorsi obbligati, sempre uguali, per arrivare a delle risposte. Sì, sì. Se tu non fai i percorsi che sono determinati, non ottieni quello che non ottieni. Non devi neanche capire. No, certo, non è necessario capire. Cioè non c'è nessuna apprensione di senso, non c'è nessuna... Devi ripetere. Passiamo a te. No, a me in questi giorni ho pensato a Barbara per tre eventi, diciamo, recenti. Perché per me, io pure l'ho conosciuta da libera, e non mi scorderò mai quel primo incontro al 32 a San Lorenzo, che lei ha detto una cosa su cui poi torna spessissimo anche nei suoi libri, però questo trauma del risveglio, quello che dicevi prima, no? Che venivano in carcere a dirvi non riconoscerete il mondo, è la prima cosa che ha detto a noi, io avevo 20 anni, no? State fuori di testa, che cosa è successo, come è stato possibile accettare tutto questo? E una parte di me ha pensato che dopo il Covid anche queste generazioni potessero provare questa sorta di trauma del risveglio, no? Questa sorta di svelamento, ok? La letteratura distopica è arrivata qui, adesso la vedremo. Cosa che purtroppo invece non è successa, nonostante... C'è però, C'è, e infatti l'altra cosa a cui penso sempre quando penso a Barbara è questa, la scrittura e, diciamo, il fare storia come tentativo anche di aggredire queste evidenze. Come mi fa pensare anche a Colette Guillaumin, che dice... E ringrazia tutte le compagne con cui fa discorso insieme, perché lottare contro l'evidenza è molto più difficile che lottare contro i sottotitoli, contro i non detti, no? Quindi è questo momento in cui è tutto squadernato, è così evidente. Nell'ultimo libro Respiro le cose che mi piacciono moltissimo sono tutti i ragionamenti sui rovesciamenti che compie il potere, no? Cioè questa, quando dice adesso le favole finiscono con il drago c'è e rimane, è lì per restare, il drago c'è e non si può sconfiggere, cioè è questo senso di... E a proposito di invece la capacità di scrivere qualcosa di diverso, e ho pensato alle linee guida sull'insegnamento nelle scuole che sono state approvate qualche settimana fa, in cui la parte sulla storia inizia così: solo l'Occidente conosce la storia, punto. Lo dice anche 21, appunto, sottotitoli. Ma però loro chiamano in causa Mark Bloch, mettendogli in bocca parole che, insomma, capito, tagliando e ritagliando il discorso così come se... E allora no, invece il suo scritto, il suo libro L'ho sempre saputo, con cui si confronta con questo eurocentrismo, con questa incapacità, diciamo, di uscire fuori da questa visione progressiva, lineare, non che ha condotto anche gerarchia, che ha condotto a naturalizzare anche il capitalismo, per cui più le cose, una delle domande nelle iniziative che ci siamo fatte, su cui anche, diciamo, io e Barbara forse manco ci siamo trovate d'accordo, era che lei diceva più diventa insostenibile il capitalismo, più come modello sociale è fallimentare, no? Più viene introiettato come il migliore dei mondi possibili, ed è stato introiettato come il migliore dei mondi possibili. Invece che, e qua l'invito è l'altra invece elemento di attualità per cui ho pensato a Barbara in questi giorni, e dice come se il capitalismo non fosse uno dei sistemi, cioè non andasse relativizzato, contestualizzato. Che cosa stanno facendo adesso nel processo Adnan Ali e Mansour? Cioè non solo lo Stato italiano si sta arrogando il diritto, il potere di perseguitare la resistenza palestinese, ma il costo, cioè quello che hanno impedito, impedendo il diritto di difesa, è proprio la contestualizzazione di quegli atti, è proprio la ricostruzione di qual è il contesto, che cosa vuol dire l'occupazione militare e coloniale e l'apartheid israeliano, perché sono questi atti, si fa il processo ai marziani, come è successo anche negli altri processi politici cosiddetti per terrorismo, sono atti completamente decontestualizzati, fatti. Quindi serve sia a criminalizzare sia dall'altra parte invece a naturalizzare questo sistema che ci ritroviamo dato, perché come farebbe? E in effetti un sacco di persone che non hanno i tempi imposti soffrono del non avere i tempi imposti, cioè non è facile neanche usarla, diciamo, la libertà in questo contesto, perché altrimenti non sarebbe così psichiatrizzata la società in questo, o non starebbe ritornando, diciamo, la droga in tutto questo, con questo asprombattuto. Quindi l'ultima cosa che mi è venuta in mente, sono andata a rileggere delle pagine di Respiro, è quando dice questo riduzionismo, ci siamo consegnati agli specialisti, alla frammentazione, siamo dei corpi che vengono tenuti in vita, appunto, no? Finché serve, come serve. E l'altra notizia che mi ha particolarmente inquietato in questi giorni è che in questa innovazione tecnologica spintissima, i ricercatori dell'MIT di Boston hanno annunciato che sono a un passo dal poter confezionare degli uomini non senzienti, non doloranti, che potranno essere usati come pezzi di ricambio per questo 1% della popolazione che sta aggredendo tutto il resto del mondo. Perché rivedendo i vari incontri con Barbara Fatti mi sono chiesta pure questo, cioè qualche anno fa dicevamo siamo alla fine di un ciclo di accumulazione e quindi, diciamo, non c'è più trippa per gatti, cioè quella, la favola dello stato sociale che ci ha un po' addormentato negli ultimi 20 anni sta giungendo al termine, però forse adesso siamo all'inizio di un nuovo ciclo di accumulazione. Cioè, c'è l'aggressione alla terra, alle terre rare, ai corpi, cioè forse è al tempo, cioè questo non è l'esaurimento del ciclo di accumulazione cominciato negli anni Ottanta, forse l'abbiamo superato e bisognerebbe cominciare a riflettere su questo.